Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Manaciuma Teatro presenta lo spettacolo Come un granello di sabbia. Giuseppe Gulotta, storia di un innocente. Testo e regia di Salvatore Arena e Massimo Barilla con Salvatore Arena. Come si conta l'aria? L'aria che perdi, l'aria che lasci andare, l'aria che non afferri. Come si conta l'aria? Quella respirata. Quella mangiata, masticata e poi sputata. Come si conta l'aria? Quella che ti riempie e quella che ti svuota d'improvviso. È tutto uguale l'aria. L'aria del primo vagito. L'aria scambiata tra padre e figlio. L'aria rubata con un bacio. L'aria stretta tra queste mura strette. L'aria che mi manca l'aria. L'aria del mare, l'aria della campagna, l'aria dei 18 anni, l'aria di tutta una vita. Dov'è finita l'aria? Grazie papà, grazie papà Vespa, arancione e bella. Domani partiamo a campagna, domani un scecco si riposa. A dove vai, Pino? A mare vai, papà, a mare. Oggi non hai di lavorare, non hai il cemento da impastare. Sì, ma non fare tardo, che tua mamma sta in pensiero. No, non faccio tardo. Vieni a luna, che tua mamma prepara un ragù, un ragù. Sì, vengo a luna, vengo. Ti saluto, papà. Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma. E non curro, no, non curro. Ma è giù, verso la marina. I sali sono usciti, i gubbi sono usciti, tenete forte Pino, tenete forte! L'aria antica finti, i lacrime all'occhio. Uno a 18 anni, su una Vespa, può pensare pure di volare. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, non pennare Pino, non pennare! Porca, lo vedi, mi bacio, porca! Ma... A 18 anni, uno si va già tutta la settimana. E poi a domenica è libero, libero di andare a onde vuole, di arrivare a un bivio, pensare di girare a destra e... L'aria ante capite, l'alberi, la campagna. E poi d'improvviso arriva un mare, un mare, un mare. Qualche giorno voglio portare mia madre al mare, che lei il mare non l'ha mai visto. Farla entrare dentro l'acqua, faccio fare un bagno. Mamma, arruavo Pino, Gaetano, Vincenzo, già dall'acqua siete. Forza Pino, vieni, vieni, che facciamo? Apriamo dentro l'acqua, forza arrivo. Ah, me ne avevi capiti, me ne avevo la maglietta, me ne forza Gaetano, Vincenzo, chiamate, forza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma quanto volete fare auto a sta parametri? Pino, c'è chi da che ti manda? Ma quale chi da bella, chi da auto, chi da chi minne rosse? No, no, no, chi da brutta, chi da che baffi, chi da quell'occhiale. Ma finita la parametri! Dai, forza, finita di tirare l'acqua, ma bruciano l'occhio, dai, finitela, Pino. Pino, che c'è? Ti stanno fottendo la Vespa. Come? Unni? Allora comincia a correre. Ah, come brucia. Pino, stavo scherzando. Pino, fermati. Ma sempre i soliti, siti. Sempre i soliti. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Adotta, ma buttasto. Adotta di 18 anni. La prima adotta da mia vita. Dai Pino, studa i candelini, vedi che sono 18, non sono 81. Uspremisti o desideri? Uspremia. Uspremisti? Uspremia! Auguri, buon compleanno, auguri! Fox, forza, inchi di bicchiere, dai, beviamo. Vincenzo, Vincenzo, Gaetano, fate un brindisi. Dai, non ti fare pregare. Questo vino è bianco e fino, brindisi faccio a Giuseppe. Ma non fa riva. Va bene, amore, amore stesso. Forza, carusi, dai, venite qua, facciamo una bella forza, dai. Gaetano, Vincenzo, scicchino, dai, venitela. E non pari, con inchi di bicchiere, vino, vino, non lo voglio, vino. Dai, a finisci. Un bel sorriso, mettetevi scinti. Un bel sorriso, e che di bicchiere, vino. Non ne voglio vino, non ne voglio vino, dai. Un bel sorriso, non ne voglio vino. Shh. Dammi una goccia di vino. Dammi un'altra goccia. Quanto ne restava mezza bottiglia? Martedì pigliamo l'altra signa. Caffè? Un caffè lo pigliamo venerdì, signa. Pasta, pomodoro, parmigiano, una stecca di sigarette, MS morbide, segna. La carne? La prossima settimana. Dammi l'ultima goccia. Io non bevevo vino. Mio padre vendemmiava, ma io non bevevo vino. Ma quando puoi solo alzarti la mattina, rifare il letto, prendere il caffè, andare all'ora ad aria, tornare in cella e alla fine andare a letto e poi ancora alzarti la mattina, rifare il letto, prendere il caffè, andare all'ora ad aria e poi alla fine tornare in cella. Il vino impari a berlo. Il carcere è così. Per come ti comporti non risponde. Ricordo il primo giorno al carcere di Trapani, più di 30 anni fa, il 13 febbraio del 76. Il carcere è come un labirinto, scale, porte, cancelli, corridoi lunghissimi e alla fine arrivo alla mia stanza, così la chiamo io. Ciao, se bullotta, stupido! Un tavolino, una sedia, un vetro opaco, gira tutto intorno. È come se io non fossi lì, come non fossi io, come fosse qualcun altro. Dopo l'isolamento mi mettono in cella con dei tipi, subito dalle altre celle si alzano le grida. Forza, fatelo uscire da lì, non può stare lì, aprite queste porte, succede una mezza rivoluzione. E allora arrivano le guardie, mi spostano distanza e tutto d'improvviso torna calmo. Non puoi stare con quelle lì, capisci? Chi se fanno i piccerilli, tu hai solo 18 anni. Regole non scritte, codici non scritti, il carcere è così, per come ti comporti lui risponde. Bulotta, ma che pensi? Alla tua Sicilia, dopo 30 anni? Forza, sbrigati, che a Trapani devi andare. A Trapani? Sì, dici che c'è un magistrato che ti vuole sentire, dici che ci sono cose nuove. Dopo 30 anni? Eh sì, Giuseppe, dopo 30 anni. Anno 2008, il giorno 9 del mese di luglio, alle ore 10 in Trapani. Avanti a noi, dottor Bodero Maccabeo, procuratore della Repubblica. Compare Bulotta Giuseppe, qualificato in atto. Signor Bulotta, lei ha la facoltà di non rispondere, vuole rispondere? Certo, rispondo. Ma non mi chiede nulla, signor giudice? No, l'ascolto, mi ascolta. Sono 30 anni che nessuno mi ascolta. Si fanno le domande e si danno le risposte. No, signor Bulotta, l'ascolto. Cominci dall'inizio. Lo vuole un caffè? Sono Bulotta Giuseppe, di anni 51. E da 30 anni vivo dentro un incubo. Tutto è cominciato quella notte. Io avevo 18 anni, signor giudice. Facevo il muratore. Volevo fare solo il muratore. Lavoravo tutta la giornata fuori e poi la sera continuavo a casa mia. Mettevo le piastrelle al bagno, che noi un bagno non ce l'avevamo mai avuto. Stavo così, con le piastrelle in mano e bussano alla porta. Sono due carabinieri, mi dicono di seguirli per delle informazioni. Sono tranquillo, tant'è che non mi cambio. Avverto mia madre che è già a letto e vado con loro. Fuori, 3 gazzelle, 10 carabinieri. È strano. Comunque, non mi preoccupo. Loro mi rassicurano ed io non mi preoccupo. Penso che forse per il concorso. Il concorso che ho fatto in finanza mesi prima. Era andato bene, signor giudice. Potevo diventare finanziere. Comunque, Arrivò alla caserma, entrò in una stanza, un tavolino, una sedia, montagne di faldoni dappertutto e la foto del presidente Almunia. Sono lì adesso. Sono lì da oltre un'ora, capisce, signor giudice? Intanto carabinieri passano, spazzano, mi guardano, ma nessuno dice niente. Adesso sono 2 ore che aspetto. Cosa ci faccio lì, sporco di calcina? Adesso mi sento stanco, spaesato, confuso, perché le ore sono 3. Mi dite che volete, che ci faccio qui? Dopo, un poco di pazienza. Ma mi dite che volete, un poco di pazienza. Ancora non lo so, non lo posso sapere. Ma a pochi metri da me, in un'altra stanza, ci sono Gaetano e Vincenzo, ed anche Vesco, il cugino di Vincenzo, nelle mani dei carabinieri. A tutto posso pensare, signor giudice, a tutto. Meno che al vero motivo per cui mi trovo lì. Nessuno me lo dice ed io non posso saperlo. Sì, lo so, ad Alcamo, 20 giorni prima, erano stati ammazzati 2 carabinieri. 2 giovani ragazzi, 2 giovani in divisa. Sì, lo so, ad Alcamo l'aria era pesante. C'erano posti di blocco dappertutto, non si parlava d'altro. Ma io come posso immaginarlo? Di essere lì in caserma, lì per quello? Io sono solo un muratore. Io ho soltanto 18 anni, signor giudice. Andava a piedi nudi per la strada. Mi vide come un'ombra, mi seguì. Col viso in alto di chi il mondo sfida. Tiene ai piedi un uomo. Conosci? Dov'è Gullotta? Il cuore aveva. Dov'è Gullotta? Di gabbia. Portatemi Gullotta, spegni quella radio. Avanti, forza. Tenetelo fermo, bloccatemi le mani, legatemi i piedi. Spegni quella radio! Porta, girate. Avanti, tenetevi la testa. Fatemelo vedere in faccia. Pezzo di merda, figliato. Ma che pensate di essere furbo, eh? Che pensavi di scappare, bastardo, tu l'ammazzasti. E adesso noi ammazziamo te. Parla, figlio di puttana, parla. Avanti, forza, dillo. Tu li ammazzasti, dillo. Avanti. Gli strappo i capelli, gli strappo i capelli. Gli strizzo i coglioni, gli strizzo i coglioni. Avanti. Ti ammazzo, e quando sei morto ti ammazzo un'altra volta. Nessuno mi salverà, nessuno. A me. Lasciatelo a me. Un pugno nella pancia, uno nello sterno, uno sopra gli occhi, un pugno, un altro pugno, un pugno ancora. Respira, dottore, respira. Ah, è vivo. Ancora per poco ti lasciamo vivo. Avanti, parla. Ma che fai, vomiti? Lavami addosso, si piace come un piccerino. Oh, dottore, svegli, svegli. Gridano, urlano, colpiscono. E io non capisco niente. Non ho braccia, gambe, lingua. Non sono niente, solo male, dolore dappertutto. Non sono niente. Oh, rivenne, eccolo qui, da morto a vivo. Parla, parla, che adesso è il tempo di parlare. Devi parlare. Io non so niente, non ho fatto niente, non c'entro niente, ma dalla bocca la voce non esce. Avanti, parla, che se parli o non parli, comunque ti ammazziamo. Avanti, ti strappo gli occhi, ti mando in giro cieco. Datemi un coltello, basta! Fuori, uscite tutti fuori. Giuseppe, respira. La vuoi un poco d'acqua? Bevo un poco d'acqua. Avanti, Giuseppe. Parla e tutto finirà, ti do la mia parola. Forza, Giuseppe, parla di conviene. I tuoi amici hanno confessato. Ferrantelli ha parlato, Sant'Angelo ha parlato. A Pesco gli abbiamo trovato perfino la pistola. Avanti, Giuseppe, dillo che sei stato tu. Avanti, Giuseppe, parla. Dimmi i tuoi complici. Che complici? I tuoi amici dicono che siete andati dal Como Marina e siete scesi giù alla caserma per rubare. Io non c'entro nulla, non sai niente. Avanti, Giuseppe, dimmi, com'è che faceste per entrare? Come la bruciaste quella porta? Com'è che sparasti tu? Avanti, dillo! Parla, Giuseppe, parla! Parla, Giuseppe! Dillo che lo ammazzasti tu! Io lo ammazzai, sì, però giuro, sull'anima di mia madre, sulla salvezza mia. sulla Madonna, su quanto voglio bene a mia sorella. Io la ammazzai su questa croce, su questo Cristo santo, ve lo giuro, sugli alberi, sul vento, sul sale della terra, ve lo giuro, su questa mano sporca di calcina, sui mattoni, sul cemento che impasto tutti i giorni, dalla sera alla mattina. Io la ammazzai, sì, io la ammazzai, per quante volte voi volete, ve lo giuro, ve lo giuro, per ogni barba che feci la ragazza, per i capelli che avrei voluto fare e non ho fatto, per il mulo che dorme in casa mia, ve lo giuro, ve lo giuro, ve lo giuro sulla merda, ve lo giuro, basta che non mi toccate, che non mi fate denti, ve lo giuro. Io l'ammazzai, sì, io l'ammazzai a tutti e tre, due erano, sì, due, come volete voi, a colpi di pala nella testa li ammazzai, no! Colpi di pistola, sì, a colpi di pistola ammazzai, due colpi diedi a uno, no, tre, sì, tre, quanti volete voi, e poi due colpi all'altro, com'è che si chiamava, come si chiamava, Falcetta, si chiamava, sì, Falcetta, e come volete voi, e poi l'altro com'è che si chiamava, che se mi interrogano io che dico, signor giudice, non mi ricordo come si chiamava l'altro, Apuzzo si chiamava, sì, sì, Apuzzo e Falcetta ammazzai, Apuzzo e Falcetta, no, no, no, prima Falcetta e poi Apuzzo, sì, come volete voi, come volete voi, basta che non mi toccate, che non mi fate i denti, che non mi sfilate manco con un pelo di bando, che io la barba la facevo bene quando era piccinino, mi mettevano sopra lo scappello e mi dicevano, avanti Pino, che fai, avanti sta barba, sì o no, ve lo giuro sulla barba, basta che non mi toccate, che non mi fate niente, che non mi sfilate giù, basta che non mi toccate giù. E allora giura. Giuro. Giura. Giura. Giuro. Avanti, giura. Firma. Firma. Firmo. Firma! Sì, firmo, firmo, firmo. Dove volete voi? Quanto volete voi? Sì, firmo, firmo, firmo, firmo, firmo, firmo. Davvero. Dai, firmo, firmo, firmo, firmo, firmo, firmo, firmo, firmo, firmo, firmo, firmo, firmo, firmo, firmo, firmo, firmo, firmo, firmo, firmo. Ma che firmasti? La sera del fatto mi ritrovai con Ferrantelli e Sant'Angelo davanti all'ospedale e con tale vescovo. Insieme ci recammo ad Alcamo Marina, dove ci incontrammo con uno di Partinico, un certo Mandalà. Fu lui a minacciarmi con la pistola e a dirmi cosa dovevo fare. Davanti alla caserma, Ferrantelli bruciò la serratura col Mandalà con la fiamma ossidrica, mentre Vescovo mi girava sulla strada. Io entrai per primo, seguito da Sant'Angelo. In fondo a un corridoio una porta l'aprì. E qui un carabiniere su una branda dormiva. Capiste che fermaste? No, sì. Qui un'altra porta. L'aprì anche il secondo carabiniere dormiva. Capisti, culotta, che fermaste? Capisti che fermaste? Poi improvvisamente mi girai perché il carabiniere nella prima stanza si era svegliato. Rizzandosi sul letto si era svegliato e lì in quel momento io sparai. Capisti, culotta, che fermaste? No, avvocato, no, no. Poi rivolsi l'arma verso l'altro carabiniere dormiva. Non si era svegliato. Sparai anche a lui, capisti, culotta, che fermaste? Culotta! Culotta, capisti che firmasti? Questo firmasti! Questo firmasti! Questo firmasti! No, avvocato, no! No, avvocato, no! No! Thank you. Sono Giuseppe Peri e sono morto. Relegato in un ufficio di Palermo a sistemare carte. Il giorno di Capodanno dell'82 sono morto, bruciato come il mio lavoro. Quando successe la strage alla casermetta, dove furono uccisi Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo, io dirigevo la stazione di polizia di Alcamo. Lo capii subito che i conti non tornavano, che quella non era roba di ragazze, ma l'ennesimo episodio di una catena per nulla casuale. Un unico lungo nero filo che aggrovigliava le province di Trapani e Palermo. Un lungo filo che partiva da lontano e che lasciava tracce. E si macchiava di sangue, droga e polvere da sparo. Mafia, neofascisti, pezzi deviati dello Stato, tutti insieme ad un unico banchetto. Alcan è un po' quell'epicentro. In un solo anno due politici uccisi, spari sui carabinieri in pieno centro. Una famiglia mafiosa, i Rini, coinvolta nell'organizzazione del golpe borghese, e non solo. E poi sequestri collegati ad altri sequestri in Puglia, in Nord Italia, sequestri eccellenti. Da lì ero partito. Da piccole tracce trovate così, quasi per caso. Tirato il capo, il filo si era dissotterrato, nodo per nodo, pezzo per pezzo. Coincidenze di date, banconote segnate ricomparse da un'altra parte, campi paramilitari nel trapanese, obblighi di soggiorno violati in coincidenza dei sequestri, e poi perizie foniche, testimonianze dei rapiti, degli arrestati, e il quadro si delinea, un'unica regia che porta lontano a Roma, a ordine nuovo. Agli avanguardisti, a Computelli che in Sicilia era di casa ancora più in su, sino agli insospettabili. Creare un clima di terrore, di tensione, elaborare una strategia, finanziare l'eversione e qualche politico importante, questi gli obiettivi. La gestione indecente delle indagini alla casermetta si iscrive in questo quadro. La polizia messa da parte, la magistratura derisa. Le torture secondo metodi che vengono da lontano, la squadra del colonnello Russo che arriva da fuori giurisdizione a gestire la questione e non compare in nessun verbale. Ma soprattutto, nessuno si chiede chi sia davvero Vesco, l'unico che veramente sa. Un ragazzo labile e monco di una mano, armato da altri, da chi? Tenuto sotto tiro, probabilmente ricattato. Nessuno si chiede perché Vesco detenga ritagli di giornali riguardanti i sequestri gestiti dai fascisti. Perché ritratti ma non accusi altri. Come se avesse paura di qualcosa di più grande. Poi il quadro si dissolve. Qualcuno passa alla stampa il mio rapporto vanificando il mio lavoro. Al termine di una riunione di polizia in cui chiedo lumi sull'operato del colonnello Russo, ritrovo le ruote della mia macchina con i bulloni allentati e poche settimane dopo Vesco viene ritrovato impiccato in cella ad oltre 2 metri di altezza, lui monco di una mano. La verità è come un diamante, dura e incorruttibile, anche quando viene tradita da chi dovrebbe difenderla. Tutto per una firma, Petra, signor giudice, capisci? Che io avevo firmato solo per farli smettere. Sì, io e anche gli altri. Che noi avevamo firmato solo per quello. Che io credevo il tempo di dirlo all'avvocato e l'avrebbero capito. Sì, che lui l'avrebbe contestato. Che mi avevano tenuto una notte in cella senza difensore e senza magistrato. Che sul verbale c'era scritto che mi avevano prelevato alle 5 del mattino e non la sera come invece era successo. Che al mio avvocato, quando la mattina era arrivato, mi avevano impedito di vedermi. L'avevano allontanato con una scusa. Tutto questo l'avvocato Francesco Lauria lo sapeva. Lo avrebbe detto, ne ero sicuro, ne ero certo, invece no. L'avevano seguito, l'avevano minacciato, l'avevano fotografato e alla fine aveva ceduto, muto. Come non ci fosse la vita di innocenti in gioco. Quando sono entrato in carcere mi sentivo quasi rassicurato, come se il carcere potesse difendermi senza più divise intorno. Avrei potuto parlare finalmente con un magistrato senza lupi a mordermi sul collo, invece no, non è come penso io. Quando il PM mi vede, gulotta, gulotta, amanti, forza, dica la verità. È impossibile che per delle botte, qualche schiaffo si confessi un omicidio. Gulotta, avanti, impossibile da credersi, gulotta, gulotta. Sto in isolamento. Per mesi. Non vedo nessuno, non parlo con nessuno. Mi specchio in un muro di cemento e sto impazzendo. L'isolamento è questo. È qualcosa che ti mangia dentro, dentro, sino in fondo. E allora dormo. E quando non dormo, piango. Vedo mia madre dopo 3 mesi. La guardo, sembra invecchiata di 10 anni. Mi ha portato la pasta a forno, stretta in un canovaccio. Mi guarda e non chiede, lo sa, non ha bisogno, lo sa che non c'entro niente. L'odore del canovaccio è l'odore a cui mi aggrappo. Passo le notti con il canovaccio nelle mani e quel profumo mi riporta fuori. Sta tranquillo, mi dice mia sorella, vedrai, vedrai che tutto si risolve. Il tempo che finiscano le indagini tutto si risolve. Ma le indagini le portano avanti gli stessi carabinieri che mi hanno fatto confessare. Così passa il tempo e non succede nulla, anche se tutti abbiamo ritrattato. Quando il PM Scudo mi guarda, gulotta, gulotta, dovreste fare il cinema, tu sei un bravo attore, dovresti lavorare con Fellini, con Visconti, Ossessione. Per lui, come per gli altri, il rapporto scritto dai carabinieri è come il Vangelo. La parola di Dio non si contraddice. E allora l'unica speranza è arrivare al processo. Sperare che l'unico che veramente sa, Vesco, parli, dica che non c'entriamo niente. Che noi siamo stati i primi che gli sono venuti in mente durante la tortura. Nomi scappati dalla bocca per evitare il martirio. E Vesco questo lo dice, lo ripete, lo scrive perfino. Ma Vesco al processo non ci arriva. Lo ritrovano impiccato in cella. Lei, signor giudice, sa come. Allora l'ho capito. L'ho capito chiaro, limpido, come l'acqua che scorre dentro il fiume. Che quella firma mi aveva condannato, sì, macchiato la mia carne, scolpito nella pietra della mia anima. Ero finito dentro un pozzo con il rischio di non uscirne più. E gli altri, che pensano fuori gli altri di me? Che sono un assassino, un mostro? Ma il mostro ha gli occhi rossi, i denti aguzzi, signor giudice. Io ho soltanto 18 anni. Basta. Basta! Buttate le stipature, mettete le crepe, alziamo un muro, un passo al cemento, chi te caincia non li scende. Dammi una picchia di vino, dammi una picchia di vino. E non mi importa se finisce da morire, che si spaccasse tutta sta testa qui, per aprirla. E non mi chiamo Pino, non mi chiamo Pino, io mi battezzo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siete voi due? Sì, siamo noi. Ma dove siete? Dove siete? Ma insomma, ci siete o non ci siete? Ci siamo, ci siamo. Perché gridate? Avevo paura di non trovarvi più. Ma siamo ancora qui, Giuseppe. Dormiamo. Dormite? Sì, Da 30 anni dormiamo. Su quelle nostre brande dormiamo. Con i nostri fiori rossi poggiati sopra il petto dormiamo. Dormiamo e camminiamo. Camminate? Sì, camminiamo. Camminiamo sempre. E non vi stancate? Sì, ci stanchiamo. Cerchiamo. Che cercate? La stessa cosa che cercate voi. Chi? Loro. Quelli che vi stanno intorno, chi sono loro? Loro sono i traditi, i percossi, i dimenticati, quelli che nessuno riesce più a vedere. Anche loro camminano. E gli altri? Quelli che ci hanno fatto questo, quelli che vi hanno fatto questo, dove sono gli altri? Loro non compaiono. Sono da un'altra parte. Sono soli nel buio. Noi non siamo soli. Non siamo soli. Non siamo soli. Siete felici? Voi lo siete. Come posso esserlo? Io soffro, vedete? Anche noi soffriamo. Per ogni parola non detta, per ogni azione non fatta, per ogni sguardo voltato da un'altra parte, soffriamo, Signore. Moriamo, Giuseppe. Moriamo di nuovo, moriamo. Posso far nulla? Ma dove siete? Dov'è che siete? Dove siete? E fu in quel momento che mi ritrovai con le lacrime sulle mani. Piangevo e camminavo. Piangevo per me, per loro, per tutti quelli come loro. E l'odore della terra era vero, vero, come non l'avevo mai sentito. Piangevo e camminavo. Piangevo. Non piangete! Non piangete! Ha ragione il Signore, non piangete! Non piangete, non piangete! Ma io non piango, non piango. Io cammino. Su, Giuseppe, veniteci vicino. Prendete un po' di more. Ma sono rosse. Su, mangiatene. Su, prendetene ancora. Ancora. A me bastano queste. No, prendetene ancora per gli altri. Per i vostri divi. Mesi e 6 giorni erano passati. Finita la custodia cautelare, potevo tornare a casa, affrontare la disgrazia con mio padre, con mia madre, dormire nel mio letto. E invece no. Me lo dicono mentre sono sulla soglia. Non posso rimanere, né restare a Trapani, a Palermo. I miei hanno già preparato tutto. È tempo di abbracciarli, salutarli, prendere una valigia e sono già su un treno. Viaggio nella notte. Dal finestrino aperto bevo vento che mi sbatte sulla faccia. Gli alberi, la campagna, il mare. Vedo tutte le stazioni, ad ogni stazione fumo. La mattina sono a Firenze. Da lì su un altro treno verso la mia destinazione, Certaldo. Adesso abito con una cugina. Lavoro in una ditta di paesani, ma allo stesso mi sento come in un mondo sconosciuto. Qui ogni cosa ha un nome nuovo, persino il mangiare. Al lavoro mi chiedono la bolla e io non so che cosa sia. Mi alzo la mattina, prendo il caffè, vado al lavoro, torno a casa, mangio e vado a letto e poi ancora. Sono libero, sì, ma a che prezzo? Mia madre, mia sorella, sono soltanto voci disturbate in un telefono e questo mi fa male. Vorrei aiutarli, ma sono loro ad aiutarmi. Impegnano la casa per pagarmi gli avvocati. Poi arriva il tempo del processo. Lascio il lavoro e torno giù. È il novembre dell'80. Il PM Garofano in aula è certo della mia colpevolezza. È così convincente che per un attimo mi sembra davvero di essere stato lì in quella notte maledetta. Ma poi per fortuna la perizia non coincide con quello che mi hanno fatto confessare. L'ordine in cui i due carabinieri sono stati uccisi. La distanza degli spari raccontano un'altra storia. Alle torture non si dà importanza come non fossero mai successe. Sono 12 ore che aspettiamo. Dei bambini giocano, ridono nei corridoi. Non sanno quello che sta per cadere sulle loro teste. Sono i figli di Mandalà. Mia madre è accanto ad una donna. Si guardano, si capiscono, io so chi è. È la madre di Salvatore Falcetta. Ma nei suoi occhi non c'è odio, no. Vuole giustizia. Alle 10 arriva la sentenza. Assolti, tutti, per insufficienza di prove. Tutti, tranne Mandalà, a lui l'ergastolo. Per una macchia su una giacca. Una macchia che prima non c'era. Una macchia su una giacca. Una giacca che compare, scompare, ricompare al tempo giusto. Ergastolo, come un gioco di prestigio, signor giudice. Adesso vivo libero, sì. Ma il mio tempo è confinato nell'attesa, perché tutto ricomincia. Dall'appello arriva la condanna, poi la Cassazione, l'annullamento, e poi ancora appello, condanna, Cassazione, annullamento, appello, condanna, Cassazione, annullamento. Un rosario di processi che si ripete più e più volte, che alla fine quasi perdo il conto. Mi sento come un mangianastri rotto, che si blocca sempre allo stesso punto. E mi tocca riportarlo indietro, sperando che vada avanti, e invece no, si blocca sempre lì, a quella nota. Poi il nastro si spezza. Mia madre si ammala e torno giù. Passo le notti accanto a lei. Vedo la sua faccia scavata dal mare, il respiro che si fa più pesante, l'aria che le manca. Le sollevo il capo per darle un po' d'acqua, asciugarle il sudore, aspetto, spero che dorma ogni notte, fino a quella notte poi in cui non si risveglia più. Dopo un po' se ne va anche mio padre, in silenzio se ne va, senza di lei non era niente. Mia grande colpa, per questa mia vita andata, per questo veleno bevuto goccia a goccia, ubicerito. Lascio la mia Sicilia e torno in Toscana, e da lontano lo capisco. Sì, anche per loro devo farlo, anche tra 100 anni, ma devo farlo. Scancellare il mostro che sono diventato, lavarlo questo nome, sì. Lavarlo 1000 volte per farlo tornare limpido, chiaro, pulito, come merita. Lavarlo 1000 volte, se non basta, lavarlo financo nell'acqua benedetta. Benedetta, benedetta. Benedetta. Benedetta. Benedetta lei, che apparve all'improvviso, come una luce dentro il buio. Lei è l'altro me di cui ho bisogno. A lei mi aggrappo. Michela. Michela, Michela, mi dai un caffè ristretto? No, ristretto, sì. Michela, mi dai un caffè normale, senza zucchero? Sì. Michela, un caffè normale, uno ristretto. Mi dai un liquore a caffè, Michela? Un affogato a caffè? Michela, un pezzo di torta, come? Sì, quella a caffè. Sì, mi dai un tasambuca, gli metti 4 chicchi di caffè? Michela, l'ultimo caffè! Giuseppe, ma non è che troppi caffè ti fanno male? No. E allora lei capisce che ore e ore lì seduto al bar non ci vado solo per il caffè. E per non farmi prendere troppi caffè cominciamo a frequentarci fuori dal bar. Sì, diventiamo amici, più che amici. Io lavoro tutta la giornata in attesa di vederla, e quando vedo lei si rompe il tempo. Una sera siamo su una macchina, lei è nervosa, si muove di continuo sul sedile, io capisco che ha qualcosa da dirmi. Giuseppe, la questione è che non è così semplice, perché che io sono una donna e... Giuseppe, tu non puoi capire, scoppia a piangere, allora io la stringo forte e penso ai miei di guai e sorrido e mi nascondo. E allora lei mi racconta tutto. Sì, mi racconta tutto del marito scappato via, dei suoi 3 figli, della vita dura che conduce. Io l'abbraccio, la stringo forte. Shh, tranquilla, Michela. E capisco che sono lì per lei. E adesso tocca a me. Sì, e le racconto tutto, tutto dall'inizio, signor giudice, proprio come a lei. E adesso viviamo insieme ai figli suoi, che sono anche i miei, perché, signor giudice, i figli sono di chi li cresce, sì? Di chi gli prepara il latte la mattina, di chi li accompagna a scuola, di chi li rimprovera anche quando serve. I figli sono di chi li cresce, signor giudice, sì? E mi chiamano zio, a me piace così. E poi un giorno sto per uscire, papà, mi dicono. E io sorrido. E poi arriva William, un nuovo figlio in mezzo agli altri figli, solo che questo lo vedo nascere. Un nuovo figlio, una responsabilità in più. Li guardo e spero di vederli crescere, di stargli accanto. Ma vivo sopra un filo, signor giudice, perché la sentenza definitiva, quella che mette un punto, arriva. Sì, la Cassazione conferma l'ergastolo e il 90. E allora crolla tutto. Spariscono i figli, sparisce Michela, la casa, tutto quello che ho costruito è solo un sogno, io sono ancora niente, signor giudice, niente, di nuovo, ancora. Tra pochi giorni verranno a prendermi, sì, possono venire a prendermi quando vogliono, sì, mentre bevo il caffè, sì, mentre bacio Michela, mentre accompagno i figli a scuola, possono venire a prendermi quando vogliono. E allora, signor giudice, io della mia vita non cambio niente. Mi attacco ad ogni istante, la notte guardo il muro, non dormo, neanche Michela. No. William si sveglia, allora io lo prendo e cammino. Cammino e canto, canzoni antiche canto. Cammino e non mi stanco. Ma poi passano i giorni, e poi anche le settimane, e nessuno viene ad arrestarmi. Nessuno viene a prendermi per portarmi in carcere. Lo chiedo perfino all'avvocato. È incredibile, dice. Non si è mai visto una cosa simile? È strano. Strano. Ma cosa vogliono? Perché non vengono a prendermi? Perché non vengono ad arrestarmi? Ma cosa vogliono? Che scappi via, che fugga via, che prenda un passaporto? Adesso sono a Roma. Sulla macchina. Michele è accanto a me, davanti ad un portone. Non ce la faccio a guardare, quindi scendo e vado. Quanti passi ho fatto per arrivare dove? Per arrivare qui? Ad essere una figura di cartone ritagliata da altri. Se entro e esco da quel portone, che resterà del mio nome? Il fango e la terra che ci hanno sputato sopra, e tutto sarà a posto, tranquillo. Una palude immobile che inghiotte cose, fatti, nomi. L'inganno perfetto, compiuto. Alzo il braccio verso il campanello. Michela mi aspetta. E lei? Cosa sarà di lei? Di noi, dei nostri figli? Che sarà? Abbasso il braccio e torno indietro. Granello, signor giudice, un piccolo granello di sabbia, è rimasto lì, nell'ingranaggio. Ogni tanto qualcuno si sveglia. si guarda nello specchio e si sente in diritto di parlare, di giudicare, di ergersi a baluardo morale. Magari fuori dalla finestra il cielo è limpido, la luce rimbalza sui palazzi, sulle strade, e questo qualcuno si autoconvince che tutto sia semplice, lineare, come la traiettoria di un proiettile. Ma il proiettile alla fine cade in terra. Agire alla luce del sole, dicono. Ma la verità è fotosensibile, va tenuta al buio. La verità va difesa, tenuta sotto vuoto, in atmosfera controllata. Se prende aria, marcisce in fretta. La verità non è per tutti. Chi dice l'inverso non sa cosa dice. È un pazzo pericoloso. E se invece lo sa, mente, sapendo di mentire. La verità non è assoluta. Va presa di petto e piegata, senza indugi, resa possibile. È nell'illuminazione di un atto compiuto che generi una stabilità. Chi decide dove comincia il male? È proprio lì, nello stesso punto in cui finisce il bene, o sono due variabili distinte? Sono entrato nell'arma credendo a un ruolo, a un simbolo, ad una divisa, giovane e ingenuo. Mi rincontrassi oggi, mi scarterei. Poi l'ho capito. Come colpito da una folgore, i simboli non sono niente. Sono solo involucri vuoti. Quello che conta non sono gli uomini, quello che conta sono i progetti, le funzioni. Bisogna avere uomini con un senso morale, ma che allo stesso tempo siano capaci di fare quello che va fatto, insieme a coloro con cui va fatto, anche se non ci piacciono. I miei non sono mostri, ma uomini, uomini addestrati, uomini che credono, che hanno famiglia, che fanno figli, che sono pieni d'amore e che comunque hanno la forza di fare questo, di agire quando è il momento, senza passioni, senza emozioni, senza discernimento. Perché è il voler giudicare che ci sconfigge. Mi avvertono così, mi chiamano alla porta. Un carabiniere mi dice di Giuseppe alla caserma, pronto per il carcere. Prendo la scarpa, la ripeto, il maglione, la giacca. William, dov'è William? Nel lettino. Lo prendo, lo stringo forte, scendo le scale, apro la porta e sono in strada. Comincio a camminare, veloce. Quanti passi ci sono da qui alla caserma? Quanti? Voglio vederlo, devo vederlo, penso. Adesso William piange e grida, grida per me, per Giuseppe, per tutti quelli come noi. Ed io non faccio niente per fermarlo. Il pianto di un bambino viene da lontano, dal fondo, dal profondo di un pozzo senza fine. Piangi, figlio mio, piangi. Perché io non ho più lacrime, lo stringo forte e corro. La bottega, il calzolaio, il tabacchino mi passano davanti, la gente che si scalza. Ecco come si spezza la speranza, come si riduce in sabbia e che mi soffoca. Il groppo che mi sale, la sabbia arriva davanti agli occhi e io non vedo niente. Allora inciampo, rotolo e arrivo con la faccia dentro l'acqua. William, no! Lo tengo in su con le mie braccia tese. Dio! Liberami da questo male, da questa lama dura e già infetta, da questo freddo che mi congela l'anima, l'anima mia, l'anima di Giuseppe. Giuseppe mi ha baciato, mi ha reso madre e sposa, mi ha sollevato il capo nella febbre. Il mostro è imprigionato adesso ed io sono libera, libera in questa gabbia, libera in questo inferno, libera in questo giorno che è divenuto notte. Maledetta io che non so dire, maledetta io che so soltanto correre. Aprite, aprite questa porta, aprite, aprite questa maledetta porta! Due passi, tre scalini, il corridoio. Giuseppe lì in fondo, mi vede e piange. Io anch'io piango, William grida, lo stringo forte, gli vado incontro e dico: non so se ho spento il gas. E allora lui sorride. E io tiro in su col naso. Sono ancora fuori da un tribunale, dopo 36 anni a Reggio Calabria, a fumare e ad aspettare una sentenza. Lo stesso Stato che per anni si è accecato impedendosi di vedere ha trovato nuovi occhi. I magistrati di Trapani che mi hanno ascoltato si sono messi a cercare per davvero, sino in fondo, a rileggere le carte e sentire i testimoni. Mi passano davanti gli uomini e le donne del processo ed io li guardo tutti in faccia, ad uno, per la prima volta tutti. Tutti quelli che sapevano e non hanno detto. Quelli che potevano e non hanno fatto, fatto tardi, troppo tardi, come Olino. L'ex carabiniere che ha raccontato tutto e ha fatto riaprire il caso. Alla fine della testimonianza mi viene vicino, mi abbraccia, scusami Giuseppe, mi dice, mi dà del tu. Certo, ha raccontato tutto. Le torture terribili a Vesco, i falsi, i depistaggi, ma basta questo. Gli inviti al silenzio dei suoi superiori, le resistenze della magistratura, dei giornalisti. Se non fosse per lui non saremmo qui. Ma dopo tutti questi anni, no. Non basta, no. Passa anche la licata adesso. Il maestro, il giornalista d'inchiesta, quello abituato a cercare la verità, ammette di aver parlato con Olino, di sapere già dal 90. Perché non l'ha scritto? Poteva raccontare tutto, no? Tutti avrebbero conosciuto questa storia e io non sarei forse finito in carcere. Perché non l'ha fatto? Lui dice per l'autorità indiscussa in quegli anni dei carabinieri, sì. Per il rifiuto del direttore per la mancanza di riscontri, ammette perfino di aver cercato tutti i protagonisti di questa storia, tutti, per cercare di capire, di sapere, di averli cercati tutti, tranne me, che stavo in carcere, e questo lui lo sapeva. Scorro gli uomini e le donne. Ed ogni parola è un punto a mio favore, certo. Sono contento. Eppure non sono contento. La parola che lave è la stessa che ha lordato l'oltraggio. L'oltraggio continua. L'oltraggio continua con l'avvocato Francesco Lauria, quello che sapeva allora e che parla solo adesso. Al perché dei miei avvocati, lui... Io vivo ad Alcamo, in Sicilia, caro collega. Lei dove vive? Risponde placido e tranquillo. Allora i miei avvocati si girano di spalle. Passano gli uomini e le donne. E passano anche i carabinieri. I carabinieri di quella notte passano. Alcuni entrano, dicono il loro nome, lo giuro su Dio, ed escono. Altri negano. Altri non ricordano. Non ricordano. Non ricordano. Non ricordano. Non ricordano. Non ricordano, non ricordano, non ricordano, non ricordano, non ricordano, non ricordano, non ricordano, non ricordano, per decine di volte non ricordano. Altri non parlano. Altri invece parlano quando non sanno di essere ascoltati. Al telefono parlano, parlano con la madre, la sorella, il figlio. Parlano con il figlio, la sorella, la madre. Figlio, figlio, sorella, madre, madre, sorella, figlio, parlano, ammettono, concordano, che non parleranno, concordano che non ricorderanno. Così passano e spassano gli uomini e le donne, testimoni del processo. E il 13 febbraio del 2012, 36 anni sono passati, una vita intera. Oggi posso finalmente lavarlo questo nome. Lo stesso giorno in cui è stato lordato, mastico quest'area di scirocco dello stretto e aspetto. Ma non solo, solo no. Accanto a me Pardo e Saro, Saro e Pardo, così li chiamo io, con i loro nomi di battesimo, i miei avvocati, i miei amici. Loro hanno raccolto la sfida, loro mi sono sempre stati accanto, non mi hanno mai abbandonato. Sono qui, aspetto e fumo. Mangerai con me prima di partire? Come vuoi, mamma, come vuoi. Spero tornerai altre volte a trovarmi. E non dimenticare la maglia di lana, che al nord c'è sempre freddo. Sì, c'è freddo. Non è come qua, no, non è come qua. Poi mia madre si alzò. Andò ai fornelli. Vidi la padella, l'olio dentro, tagliare i pomodori. Le mani rugose, la faccia bruciata dai mille soli. Ed io vidi nei suoi passi tutta la stanchezza, nel rosso dei pomodori tutti i suoi anni, nel tremare delle mani tutta la pena. E sentii in me come un amaro salirmi in gola, diventare acqua. Li senti, disse mia madre, sparo, come fossero in guerra sparo. A che sparano, chiesi io? A niente. Non è rimasto niente? Perché lo fanno allora? Non lo so, non lo so. Tuo padre l'ha tagliata la vigna. L'ha tagliata? Sì, non vuole più un vino. E che beve, mamma? Niente. Acqua. Beve solo acqua. E gli passa la sete? Non lo so, non lo so. Di che stavamo parlando? Niente, mamma, di acqua. Vado. Non mangi? Mangerò un'altra volta. Pino. Pino. Pino. Sì, chiaro come all'acqua, Pino. Pino Uvicirillo. Non preoccuparti, mamma. Vedrai. No, io non vedrò. Forse tu vedrai un giorno. Sarà come diventare da morto a vivo. Tutti ti guarderanno come per la prima volta. Tutti lo diranno, eh sì. L'avevo detto io, che Pino non c'entrava niente, che Pino è un bravo figliolo, che pensa solo a lavorare, che gli hanno rubato l'ore, giorni e i minuti. Sarà come imparare a camminare, Pino, come da picciriti. E vaccia al mare, Pino, vaccia, non ritardare niente, che io non ci porti mai andare. E nuota, Pino, nuota, nuota per te, per me, per tutti quelli come noi. Nuota e vai lontano e non fermarti, Pino, e non essere arrabbiata, mamma. E tu? Tu non sia arrabbiato, tu, Pino. E che cambia? Ma cambia per te. Non voglio amaro dentro, mamma. E che vuoi, Pino? Che vuoi? L'acqua. Voglio solo l'acqua. In nome del popolo italiano, la Corte di Appello di Reggio Calabria, visti gli articoli 637, 639, 530 Codice Procedura Penale, revoca la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Assise d'Appello di Catania in data 29/11/89 e assolve l'imputato Gulotta Giuseppe dai reati allo stesso ascritti per non aver commesso il fatto. Ordine infine l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa. Udienza tolta. Che mondo è questo? In cui la vendetta vale più della giustizia. In cui Qualcuno falsifica le prove, mette una macchia di sangue dove prima non c'era, bacia suo figlio e va a letto tranquillo. In cui le carte intrise di sangue e menzogne possono essere usate contro qualcuno senza un dubbio, senza una domanda. Eppure sono ancora vivo. Certo, ho avuto giustizia, libero, ma ancora qui, davanti al mare, non posso fare a meno di chiedermi queste cose. Quanti come me, come Giovanni, come Gaetano, come Vincenzo, aspettano, senza avere voce. Quanti come Salvatore, come Carmine, camminano e cercano nel buio. Fine. Come un granello di sabbia. Giuseppe Gulotta, storia di un innocente. Testo e regia di Salvatore Arena e Massimo Barilla, con Salvatore Arena. Salvatore Arena, benvenuto a Onda Rossa, Salvatore. Ciao, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Per chi ci ascolta, che storia è questa? Raccontiamola un po' brevemente. È una storia terribile, è una storia di ingiustizia, perché siamo nel 76, siamo in Sicilia, due giovani carabinieri vengono uccisi ad Alcamo Marina, i corpi vengono ritrovati nella caserma e i colpevoli vengono così cercati senza una logica, senza una ragione, senza nessun motivo, beccati in strada o a casa come Giuseppe Gulotta, portati in caserma, torturati e costretti a confessare, messi in carcere, quindi senza il reale colpevole o i colpevoli degli omicidi. E quindi è un mondo capovolto, è un'ingiustizia estrema, è una frode giudiziaria, insomma è tanta roba messa su un piatto, sì, diciamo. Sì, un sì. Piatto in cui però in gioco c'è la vita di questi uomini. Sì. Senti, Salvatore, come è nata la spinta a drammatizzarlo teatralmente e su cosa avete lavorato? La nostra è sempre parte da una necessità di raccontarla, la storia. Devo dirti che le storie vengono a cercarci e questa è proprio venuta a bussare alla porta, perché un amico era il 13 febbraio del 2012, era lì a fare le riprese nella sentenza che è stata data in quel giorno di assoluzione, e ha incontrato Massimo e gli ha detto che è il mio compagno di lavoro, Massimo Barilla, e ha detto: guarda, ho visto una cosa assolutamente assurda, era con la camera. Poi un amico di Massimo, che è un avvocato, ha detto: guarda, c'è una storia che è assolutamente terribile, bisognerebbe raccontarla, ed era la stessa storia. Quindi la necessità era di raccontare il dramma di Giuseppe, ma anche delle persone che gli erano accanto. È veramente una tragedia che ha attraversato Giuseppe, pur mantenendo comunque, perché per chi lo conosce, perché non avrà la fortuna di conoscerlo, una purezza nonostante tutto il male sia stato gettato addosso. Quindi è una storia necessaria per tenere presente che quella cosa che è successa a lui poteva e può accadere anche a molti altri, è accaduta e accade. Sì. Ecco, questo bisogna tenerlo ben presente. Senti, come lo avete costruito lo spettacolo? Lo spettacolo abbiamo costruito, siamo partiti immaginando una nostra possibile struttura su questa storia. Poi siamo andati a incontrare Giuseppe Gulotta e quella struttura l'abbiamo gettata via, perché Giuseppe ci raccontava il suo essere, la sua persona, la sua semplicità, la sua sensibilità, e quindi siamo partiti da Giuseppe, dall'incontro con lui, che è stato assolutamente fulminante. Vi racconto brevemente, perché so che in radio i tempi sono ristretti. Eravamo a pranzo, ho visto bere il vino a Giuseppe con gusto, ho detto: ti piace il vino? E lui mi ha detto: Salvo, guarda che io il vino prima di entrare in carcere non lo bevevo, ho imparato a berlo in carcere. Da lì siamo partiti. Sì. Cioè, questa piccola cosa che ti dà anche la dimensione dell'uomo semplice di Gulotta, diciamo. Siamo partiti da lui, dalla sua umanità, da questa sua non voglia di arrendersi, tant'è che lui aveva anche altre possibilità, come poi hanno fatto anche gli altri due ragazzi coinvolti nella storia, di andare via, di fuggire, e lui è rimasto e ha combattuto sino all'ultimo, sino al 13 febbraio del 2012, quando gli è stata comunicata la sua assoluzione piena, sì, la sua innocenza. Sì. È una storia necessaria, commovente, una storia, secondo me, che vale la pena e è necessario raccontare. Senti, per saperne di più c'è una pagina Facebook, un sito internet? Sì, c'è una pagina Facebook, Malacuma Teatro, però sono il meno tecnologico della compagnia, quindi non ti so. Comunque Malacuma Teatro. Perfetto. È la pagina Facebook. Perfetto. Salvatore, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, saluta Massimo. Okay. Ciao. Ciao. Ciao, un abbraccio e buon lavoro. Grazie. Ciao. Con Booming 2, che insieme a Giacomo Costantini è autore e regista dello spettacolo L'Uomo Calamita, in prima nazionale a Roma, Teatro Vascello, dal 12 al 15 dicembre 2019. Ben trovato. Grazie, ciao, grazie dell'invito. Ci racconti di questo lavoro? Sì, allora, intanto è un lavoro che cerca di mettere insieme linguaggi differenti e per creare qualcosa di nuovo, di originale, non già visto, non già sperimentato. E i linguaggi sono quello del circo, e in particolare del circo contemporaneo all'antica, così come lo chiama la compagnia Il Grito, di cui fa parte Giacomo Costantini, e cioè un circo che utilizza i numeri, le acrobazie, gli esercizi, non diciamo come fine a se stessi, non come attrazioni che durano il tempo di 5-10 minuti e poi parte l'applauso, ma come elementi di una narrazione, quindi in maniera teatrale, se vogliamo. L'altro linguaggio è quello del testo, della letteratura. Io sono sul palco a leggere, declamare la storia dell'uomo calamita nei momenti in cui appunto i numeri di circo non bastano per darne conto e per evocarla, e poi c'è un batterista con una batteria triggerata elettronicamente, che è Cloyne da Macerata, che aggiunge, diciamo, anche il suo linguaggio, cioè quello dei suoni e della musica, che in qualche modo fa già parte del circo, ma non in maniera così forte, non in maniera così protagonista. Ci racconti un po' meglio anche come ha avuto origine questo progetto? Sì, io ho conosciuto Giacomo un po' di anni fa e abbiamo subito condiviso l'idea di provare appunto a sperimentare all'incrocio tra letteratura e circo. A me piaceva molto l'idea di uno scrittore che va sotto un tendone, uno sciapitò di circensi, perché il tendone del circo non crea dislivelli, diciamo. Adesso a Roma lo faremo in un teatro, ma questo spettacolo in anteprima l'abbiamo fatto, diciamo, in una formula un po' più breve, anche sotto il tendone del circo, e al circo vengono tutti, al circo arrivano i bambini, arrivano le persone che vedono soltanto il tendone, dicono boh, andiamo a vedere che c'è, quindi veramente ha un ingresso molto popolare, no? E a me l'idea di portare un testo, di portare le parole anche in quel contesto mi sembrava molto interessante, per cui avevamo cominciato a fare degli esperimenti. Uno dei primi fu questo piccolo circo magnetico libertario che prendeva spunto dall'Armata dei Sonnambuli, il nostro romanzo collettivo, quello subito prima dell'ultimo uscito, però appunto in qualche modo ne veniva fuori uno spettacolo che era una presentazione di un libro, insomma, che non viveva senza il libro. E quindi dopo quell'esperimento lì, avendo visto che insomma circo e letteratura e parole potevano stare insieme, che uno scrittore sotto il tendone non era un intruso totale, abbiamo pensato di scrivere uno spettacolo invece pensato appositamente per questo connubio, insomma, musica, letteratura e circo. E siccome Giacomo aveva in testa da tempo, insomma, di utilizzare i suoi poteri magnetici sulla pista, quindi aveva in mente da tempo di portare al pubblico questo supereroe, l'uomo calamita, abbiamo ideato la sua storia e costruito intorno, diciamo, a questo personaggio una vicenda che anche qui insomma non è proprio comunissima per il circo, perché è una vicenda storica ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, a questo proposito, su quali elementi avete voluto centrare la narrazione? Intanto c'è uno spunto storico, e cioè il fatto che Rom e Sinti hanno partecipato alla resistenza italiana. La resistenza italiana è molto più meticcia, creola, mescolata, ibrida di quanto non si sappia. Ci siamo messi lì un giorno a fare un calcolo, insomma, delle nazionalità rappresentate nelle varie formazioni partigiane. Siamo arrivati a 52 degli attuali stati. E, tra questi, non come nazionalità, ma in questo caso diciamo come popolo, come etnia, anche i Rom di varie nazioni, anche i Sinti, in particolare italiani, sono rappresentati. C'è un caso di una intera brigata nel Mantovano che era formata da artisti sinti circensi, e ci sono alcuni martiri partigiani sinti in un eccidio vicino a Vicenza. E quindi da questa base storica e dal fatto che il fascismo in maniera sistematica dal 1940 perseguitò Rom e Sinti, impedendo loro di esibirsi, ma poi molto peggio, insomma, concentrandoli nei campi e rastrellandoli, da qui siamo partiti per immaginare un artista di circo sinto, l'uomo Calamita, appunto, che con l'inizio della guerra e con l'uscita di queste circolari del capo della polizia fascista Bocchini, si ritrova a non poter più lavorare, a non poter più esibirsi nel suo circo, e di conseguenza si dà alla macchia, e a un certo punto incontra altri che come lui si sono dati alla macchia per resistere, per combattere il nazifascismo, e quello che lui può portare sono i suoi superpoteri, appunto. Lui è in grado di attirare ferri a distanza, è in grado di disarmare i nazifascisti grazie alle sue abilità magnetiche, è poi un circense, funambolo, quindi diciamo i suoi superpoteri per certi versi vengono utilizzati contro il nazifascismo, soprattutto per inridere il nemico, e questo ovviamente lo porta a essere il ricercato numero uno della zona. Dopo Roma comincerà un suo percorso? Ma sicuramente sì, diciamo ce l'ho avuto prima, come dicevo, perché questo è uno spettacolo che parte da lontano. Il primissimo studio durava una mezz'oretta e lo presentammo a Maiolati Spontini in provincia d'Ancona ormai nel dicembre 2017, quindi 2 anni fa. Questo proprio perché, appunto, per trovare la giusta miscela dei 3 ingredienti che mescoliamo dentro a questo spettacolo avevamo bisogno di tempo, avevamo bisogno di sentire le reazioni del pubblico, di sperimentare. Quindi abbiamo fatto appunto studi, abbiamo fatto un'anteprima a Bologna il 25 aprile di quest'anno in teatro. Questa anteprima diversa da quella che presentiamo a Roma è andata in giro poi un po' durante l'estate, e adesso siamo pronti a portare in giro lo spettacolo definitivo, quindi sì, abbiamo già date per l'inverno, per la primavera, e sicuramente altre ne verranno anche con l'estate, quindi ci sarà modo di vederlo in giro, e immagino soprattutto ci sarà modo di vederlo anche sotto il tendone, che secondo me è davvero il suo ambiente privilegiato, ecco, senza niente togliere a un bel teatro dove si sta magari più comodi, però sotto il tendone il circo ha un'atmosfera che non si riesce a ricreare da nessun'altra parte. Per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti? Sì, la compagnia Il Grito ha una pagina Facebook che è Il Grito, e ha anche un sito internet dove si possono trovare tutte le prossime date. Per quanto riguarda Roma, noi saremo a Roma dal 12, giovedì, che è appunto il giorno del debutto, alle 21 al Teatro Vascello, poi di nuovo venerdì il 13, sempre alle 21, e poi sabato 14 e domenica 15. Il 14, se non ricordo male, dovrebbe essere alle 7, e invece la domenica dovrebbe essere uno spettacolo pomeridiano e forse un altro serale. Ora gli orari non li ricordo con precisione estrema, però c'è il sito del Teatro Vascello, dove cercando l'uomo Calamita si trovano orari, biglietteria online, si trova la possibilità appunto di prenotare anche per telefono, quindi insomma tutti gli estremi e tutti i dettagli sono lì. L'Uomo Calamita a Roma al Teatro Vascello dal 12 al 15 dicembre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Booming 2 che insieme a Giacomo Costantini lo ha scritto e diretto. Un abbraccio, un in bocca al lupo, ci si vede a teatro. Viva il lupo, ci vediamo, ciao. Con Roberta Nicolai, direttrice artistica della 13ª edizione di Teatri di Vetro, Festival delle Arti Sceniche Contemporanee, dal titolo Oscillazioni, a Roma, Teatro India e ad Ostia, al Teatro del Lido, dal 14 al 22 dicembre 2019. Roberta, ben trovata. Grazie, buongiorno a tutti. Descriviamo cos'è per chi non lo conoscesse, Teatri di Vetro. Sì, è un progetto artistico ormai che ha al suo centro appunto questo claim che ha la durata di un triennio, oscillazioni, e vuole indicare un disequilibrio, abbandonare quella zona di comodità della convenzione teatrale per mettere sia gli artisti da una parte sia gli spettatori dall'altra in un equilibrio un po' più instabile. In maniera semplice, non ci sono solo spettacoli, ci sono chiaramente, sono programmate anche le opere, ma a fianco delle opere ci sono tutta una serie di congegni scenici paralleli che sono nati dal rapporto tra la curatela e gli artisti nel tentativo di proprio interrogare la creazione contemporanea e a partire da un'idea artistica far sì che questa possa produrre, oltre alla sintesi poetica principale, quindi l'opera, lo spettacolo, una serie di altre zone di creazione assolutamente difformi, determinate dal progetto artistico stesso. Per essere semplice, sembra una cosa molto complessa, in realtà si traduce in maniera anche molto diretta, molto semplice, addirittura inclusiva degli spettatori. Ci sono a Ostia i progetti che coinvolgono direttamente i cittadini. Una parte della creazione delle tre coreografe che sono programmate ad Ostia si rivolge al coinvolgimento diretto, alla partecipazione dei cittadini, che sono proprio chiamati a comporre insieme agli artisti. Infatti da oggi a venerdì partono tre laboratori, uno rivolto ai bambini, gestito da Paola Bianchi, uno ad un gruppo intergenerazionale gestito da Chiara Frigo e un altro gruppo sempre intergenerazionale gestito da Silvia Gribaudi con Qui e Ora. Sono appunto una settimana, tre laboratori diversi tra di loro che da una parte aiutano gli artisti attraverso il coinvolgimento dei cittadini a approfondire alcune linee della propria ricerca, dall'altra chiaramente mettono gli spettatori all'interno dell'atto performativo. Questo è un modo, una delle pratiche che determina chiaramente un disequilibrio. Lo spettatore non è più chiamato semplicemente a sedersi in sala a guardare uno spettacolo finito, ma è chiamato a fare un altro tipo di gesto, di attività, di pratica. E nell'arco del cuore del festival, che poi è tutta la programmazione a India, questo disequilibrio, questa interrogazione costante della creazione si traduce chiaramente in congegni più svariati, più anche distanti dalla convenzionale concezione di uno spettacolo. Faccio un esempio: Paola Bianchi ha prodotto un audiodramma coreografico in cui gli spettatori sono chiamati ad ascoltare una descrizione coreografica, quindi ad immaginare il movimento attraverso veramente semplicemente la descrizione attraverso le parole e successivamente ad agirla se vogliono, come vogliono, no? Quindi ad incarnarla con il loro di corpo. Il progetto di Paola, il nucleo del progetto di Paola è di sottrarre il corpo del maestro come modello, no? Quindi di aprire una possibilità della coreografia assolutamente democratica, senza un modello di riferimento. Si esplica attraverso questo audiogramma e attraverso altri quattro dispositivi scenici e quindi è un progetto molto, molto articolato e anche con una certa complessità in cui da una parte c'è il suo solo, quindi Energia, c'è la sua opera, dall'altra però questa opera non è esaustiva di tutto il processo di creazione, ma ha bisogno di una serie di altri luoghi tempi in cui far emergere altri livelli, altri piani, e poterli condividere con gli spettatori. Dal mio punto di vista, chiaramente significa provare a mettere gli spettatori a contatto con il cuore della scena contemporanea. Chiunque si sia trovato in sala a seguire la creazione in diretta, cioè le prove, sa quanto è stimolante, ricco, prezioso, divertente, piacevole l'osservazione della creazione nel suo farsi. E a volte questa vitalità nello spettacolo chiuso, nello spettacolo, nell'opera, si perde. Allora, il teatro di vetro, cioè oscillazioni, in qualche modo tenta di riportare in superficie questi piani e questo piacere assolutamente immediato che uno spettatore ha nel guardare qualcosa che si sta creando e che vive sulla scena realmente, non dentro convenzioni. Complessivamente quanti saranno gli eventi artistici? Sono 28 a India e 3 al Teatro del Lido. Appunto, iniziamo da oggi questi laboratori e gli esiti sono il 14 e il 15. Il 14 c'è l'esito di Paola Bianchi e di Qui e Ora con la regia di Silvia Gribaudi, e il 15 Ballroom di Chiara Frigo. Poi riprendiamo immediatamente il 16 e dal 16 al 22 in zona proprio natalizia consumiamo appunto questi 28 dispositivi, congegni scenici, ci sono in realtà molti, sono spettacoli, sono performance, sono appunto oggetti a volte ibridi tra il performativo e il discorso. Però io dico sempre, quest'anno siamo anche attività esterna del DAMS, quindi avremo anche gli studenti, dico sempre che una cosa interessante è seguire interamente un artista. Chiaramente non posso pensare che gli spettatori, diciamo, ordinari possano stare dal 16 al 22 tutti i giorni, tutte le sere a teatro a seguirsi tutto, e sarebbe chiaramente lo spettatore ideale. Ma se appunto uno ha meno tempo, almeno seguire un artista interamente, cioè che ognuno di loro è programmato con 3, 2, 3, 4 piani, e se si riesce a seguire interamente un artista, credo che ci si porta a casa qualcosa. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più? Sì, c'è il sito teatridivetro.it, c'è un'attività Facebook e Instagram abbastanza compulsiva, quindi le informazioni ci sono tutte, si può scrivere per prenotare, consigliamo la prenotazione, intanto perché alcune piante sono ridotte, quindi alcuni di questi spettacoli prevedono un numero limitato di spettatori, quindi consigliamo per tutti la prenotazione a promozione @triangoloscalenoteatro.it. I prezzi sono al solito chiaramente molto molto politici e quindi insomma non c'è la barriera data da un prezzo del biglietto assolutamente esclusivo, tutt'altro. 13ª edizione di Teatri di Vetro, Festival delle Arti Sceniche Contemporanee, dal titolo Oscillazioni, ad Ostia al Teatro del Lido e a Roma al Teatro India dal 14 al 22 dicembre 2019. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Roberta Nicolai. Un abbraccio, grazie. In bocca al lupo e a presto, Roberta. Grazie. L'autore e attore Davide Nia sul suo spettacolo L'Abisso a Roma al Teatro India dal 3 al 15 dicembre 2019. Davide, ben trovato. Ciao a tutti, salve. Lo descrivi? L'Abisso è il secondo movimento dopo la scrittura del romanzo Appunti per un naufragio, che prova a riflettere sulle parole per raccontare l'esperienza che ho vissuto andando sistematicamente per anni a Lampedusa. È un tentativo di provare a nominare il presente nel momento della crisi, prendendo atto del fallimento delle parole, prendendo atto dell'assoluta novità di quello che sta accadendo e della necessità di un cambio di paradigma, proprio perché è nuovo,

facendo in qualche modo del teatro il luogo del dubbio, della discussione, della riflessione sul presente, che è un po' il motivo per il quale il teatro stesso era nato, cioè porsi dubbi, domande, riflessioni su quanto sta accadendo ora. Ricordiamo allora lo spettacolo L'Abisso di e con Davide Nia. Davide, è sempre un piacere, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci vediamo a teatro. Grazie a voi tutti, un caro saluto agli ascoltatori. Ciao amici. Ciao. Ciao. L'autore e attore Davide Nia sul suo spettacolo L'Abisso a Roma, al Teatro India, dal 3 al 15 dicembre 2019. Con Nicola Zavagli di Teatri d'Imbarco, che cura l'adattamento e la regia dello spettacolo Cubane Calling on Stage, in tour da mercoledì 20 novembre 2019. Nicola, ben trovato. Buon pomeriggio a tutti. Com'è nato lo spettacolo? All'interno di Lucca Comics and Games, questo meraviglioso festival kermesse dedicato al fumetto, ai comics e alle serie televisive, ai games, che si tiene ogni anno a Lucca nella prima settimana di novembre. È nato lì perché lì è nata l'idea di provare a adattare il fumetto al teatro. Primo anno abbiamo fatto un omaggio a Ugo Pratt con una ballata per Corto Maltese, il secondo anno è nato Cubane Calling on Stage e quest'anno abbiamo fatto un adattamento di Io sono Cinzia. Ho sempre curato io l'adattamento e la regia all'interno di un progetto di Luca Crea, curato da Cristina Puccardi e da me, che si chiama proprio Graphic Novel Theater, proprio come marchio, insomma, si è cercato proprio di codificarlo, ecco, perché ci è sembrato un modo per portare l'immaginario del fumetto a sciogliersi dentro quello che è l'immaginario che può portare il teatro, ecco. Quindi è nato in questa trilogia che abbiamo fatto in questi anni a Lucca Comics and Games. Nella costruzione dello spettacolo, com'è stato il rapporto con Michele Zero Calcare? È stato meraviglioso perché, come sempre, quando devi curare un adattamento, io lo dico anche per mia esperienza di sceneggiatore cinematografico, l'autore di un romanzo o, come in questo caso, di una graphic novel, chiaramente ha sempre il timore che tu possa distruggergli il suo, in questo caso parliamo proprio di un vero e proprio capolavoro. Cubane Calling è veramente una graphic novel straordinaria, quindi il suo timore è quello di una cosa brutta, ecco, o una cosa che potesse non funzionare. Come adattatore e regista hai altrettanta paura di rovinargli il suo lavoro, quindi è chiaro che erano due ansie a confronto. In realtà il confronto è stato molto breve perché ci siamo sentiti solo una volta, per cui mi ha dato una grande libertà di potermi muovere all'interno di quella struttura ricchissima, piena di piani, di citazioni, volte pop, del basso, dell'alto, del comico, del drammatico, che è la sua graphic novel, e quindi l'adattamento è stato difficile, impegnativo comunque. Poi è stato difficile perché si trattava di mantenere quella ricchezza di piani narrativi, cioè il siparietto comico, la battuta bassa e nello stesso tempo il monologo drammatico che può dare voce a chi la guerra la sta combattendo da anni, al popolo curdo, quindi nel rispetto anche di un orgoglio loro e di una guerra che stanno facendo loro in prima linea anche per noi. Quindi il lavoro con lui è stato meraviglioso proprio perché ci siamo in realtà sentiti solo una volta in un punto del mio percorso sull'adattamento e quindi lo devo ringraziare. E poi ci siamo visti soltanto la sera in cui ha debuttato lo spettacolo, lui in prima fila a tremare perché non sapeva nulla, non aveva visto prove, non sapeva nulla, e io in cabina di regia a tremare, speriamo insomma che il pubblico lo possa apprezzare. Quando lo spettacolo è finito, nell'adrenalina mille e negli applausi del Teatro del Giglio di Lucca, è salito sul palcoscenico e ho letto un sorriso e una soddisfazione anche sua, e ha anche lasciato alla più giovane attrice della compagnia, Matilde, ha lasciato anche un disegnino con Calcare che dice quanto ho tremato, quanta paura, ma grazie a tutta la compagnia. Insomma, da quella serata lì è poi nato il desiderio di portarlo in giro per tutta Italia e quindi è nata la tournée. La trasposizione su cosa hai voluto centrarla? Io ho voluto mantenere tutta la ricchezza dei piani narrativi, come dicevo prima, cioè quindi ho usato la ricchezza dei linguaggi che può portare il teatro, ovvero il grottesco per tradurre i siparietti e le senete e gli incisi che ci sono dentro Kobane, ho usato il monologo per dare voce al dramma dei testimoni e di chi la guerra l'ha subita a carissimo prezzo, ho voluto usare le proiezioni sul fondale per far dialogare l'attore in scena e il disegno di Zero, per cui non dimenticare chiaramente quello che è la forza grafica, l'espressione potente di certi momenti della graphic novel. A volte li ho usati come scenografia, a volte li ho usati per mettere a confronto quello che l'attore in carne ed ossa in scena e come invece Zero Calcare le ha disegnati. Il grottesco nel teatro mi è servito per mantenere la comicità, il buio, il gelido, poi chiaramente ho usato anche la coralità, per cui in scena ci sono oltre agli 8 attori giovani, talentuosi, di scuola romana poi, che hanno anche il potere e la bellezza della lingua, perché poi in teatro i dialetti sono una ricchezza, da Pirandello a Goldoni lo sappiamo, Dario Fo, insomma i nostri grandi hanno sempre usato il dialetto e quindi funzionava benissimo quel dialogo lì. E poi ho voluto usare anche un gruppo di giovani attori fiorentini nati nei corsi di formazione del mio teatro, la mia compagnia che si chiama Teatri d'Imbarco di Firenze, che ha la direzione artistica la nostra prima attrice Beatrice Bisbelli, che è l'anima creatrice di tutti i nostri lavori, e con lei abbiamo ideato anche delle scene corali in cui potesse essere rappresentato alcuni momenti in cui per esempio c'è l'incontro con le guerrigliere del PKK, l'arrivo in Rojava, il cimitero dei martiri dove arrivano loro, oppure anche lo stesso aeroporto durante il viaggio, insomma, e quindi avere anche una ricchezza di attori in scena, per cui stiamo in realtà portando in giro uno spettacolo con ben 15 giovani attori in scena, per cui anche un impegno produttivo e distributivo non da poco. Di questi tempi dove si gira con 2 o 3 attori, portare in giro Kobane Calling è e sarà un'avventura, ecco, in questo senso, ecco. Lo spettacolo ha una dedica importante e alcune tappe del tour prevederanno la presenza di Michele. Lo spettacolo è dedicato a Lorenzo Orsetti, a un ragazzo fiorentino che ha preso coscienza di quella che era quella guerra e ha smesso di parlare e ha deciso di andare a combattere a fianco al popolo curdo e ha dedicato la sua vita, è morto, e noi nella prima fiorentina al Teatro Puccini abbiamo voluto, nel talkback che facciamo con Michele Recker, con Zero Calcare, abbiamo voluto far salire anche il babbo Alessandro Rossetti e farci raccontare da lui come un padre può vivere con orgoglio e con dolore quella che è la morte di un figlio in una guerra che dura da anni, e l'abbiamo voluto noi come compagnia Teatri d'Imbarco con Beatrice Visibelli, abbiamo fatto tanti spettacoli dedicati alla resistenza, alla guerra e alle resistenze, come teatro popolare d'arte civile, come ci piace a volte definirci in maniera sintetica, e l'abbiamo voluto dedicare a Lorenzo Orsetti, il suo soprannome è Orso, proprio perché ci sembrava un partigiano del nostro tempo, per cui è dedicato a lui lo spettacolo. La presenza di Zero Calcare sarà nel tour nazionale ai debutti nelle grandi città, saremo al Teatro Bellini a Napoli, a Siena, ai Rozzi, a Genova, a Bologna, a Trieste, a Milano, e nelle grandi città ci sarà sempre questo momento di incontro e di riflessione che facciamo dopo lo spettacolo, perché chiaramente Michele non solo è un grande fumettista, ma è anche una persona che riesce a comunicare con una grande semplicità e chiarezza anche certe difficoltà nel poi star dietro a quelli che sono gli sviluppi poi di questa guerra e a portare anche un'informazione alternativa a quella che viene sbandierata poi nei telegiornali, dalla stampa ufficiale. per cui è importante la sua presenza in questi callback, in questi momenti di riflessione, perché comunque la storia si ferma al 2016, quella guerra continua e continua tra l'altro ad avere delle dinamiche non diverse, però adesso c'è un'attualità molto feroce, delle accelerazioni insomma della storia che in qualche modo completa anche quello che è il racconto contenuto nello spettacolo. E naturalmente in queste grandi città dove portiamo lo spettacolo cerchiamo sempre di coinvolgere le comunità curde locali, per cui la Mezzaluna Rossa, e quando saremo a Roma a 5 debutteremo al Teatro Vittoria, ci siamo di Altestaccio, proprio nel quartiere dove c'è la sede del popolo curdo. In chiusura, Nicola, ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più anche sulle date? Certo, allora c'è il sito di Teatri d'Imbarco dove c'è tutta la tournée con tutte le date, con tutti i teatri, per cui lì potete trovare tutto quanto, quello che sono le informazioni. Saremo dal 5 al 15 al Teatro Vittoria a Roma, e lì è chiaramente per noi è un momento molto emozionante, importante, perché la storia di Kobane Kolyon è un gruppo di giovani volontari romani, di ragazzi che parte per la Siria proprio per andare a vedere la guerra da vicino, per portare solidarietà, aiuti umanitari e anche per provare a fare una cronaca alternativa di quella che è l'esperienza straordinaria sia della resistenza di Kobane, che è la Stalingrado del nostro tempo per aver resistito così all'assalto dell'ISIS, sia quella che è l'esperienza di democrazia partecipata del Rojava, emancipazione femminile, rispetto delle religioni, la multicultura, l'ecologia, quindi un'esperienza straordinaria di democrazia dove invece di portare, come si pensa sempre noi, la democrazia e i valori della nostra civiltà, lì ne hanno toccato con mano quello che invece è la straordinarietà e la bellezza di quella che è la democrazia partecipata del Rojava, che in questo momento è ancora più messa a dura prova dalla guerra, perché lì è uno dei focus caldi in questo momento. Abbiamo avuto ora una partecipazione di pubblico e ci ha dato una grande soddisfazione, perché oltre al pubblico classico che frequenta i teatri, questo spettacolo sta intercettando finalmente un pubblico giovane, un pubblico che ama la graphic novel di Piero Calcare e che ha una sua sensibilità politica anche per questi temi e per questa purtroppo interminabile guerra del popolo curdo. Kobane Calling on Stage in tour con Zero Calcare da mercoledì 20 novembre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Nicola Zavagli di Teatri d'Imbarco, che ne cura l'adattamento e la regia. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie a tutti, venite tutti quanti a vederlo, perché è un momento di solidarietà anche per chi viene a vedere, e si ride e ci si commuove, e in maniera, spero, anche intelligente. Con Simone Nebbia di Teatro e Critica siamo alla settimana teatrale romana, e ciao Simone. Questa settimana abbiamo un bel po' di così, gli ultimi botti, diciamo, prima di una piccolissima pausa, qualcuno fa la pausa, qualcuno no, per quanto riguarda la pausa natalizia, ecco. In queste ultime due settimane ci porteranno un bel po' di teatro però. Allora, andiamo a vedere, tanto 13-15 dicembre Teatro nel Costudio, il ritorno di Sciaboletta, una piccola storia, un piccolo re. Non lo abbiamo noi l'archivio? Sì, no, forse. Lo abbiamo intervistato più volte. Infatti, Alessandro Blasioni scrive, dirige e interpreta questo lavoro. Lui è un attore, drammaturgo, insomma, regista di Chieti, abruzzese, e proprio in un territorio, insomma, importante in realtà per quella che è stata la storia d'Italia, perché questo monologo racconta proprio la fuga del re Vittorio Emanuele III subito dopo l'armistizio con gli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 9 settembre del 43, il giorno dopo appunto il famoso armistizio, che in realtà fu poi stipulato qualche giorno prima, ma insomma vabbè, ci piace in qualche modo dare nomi e giorni alla storia, appunto l'Italia passa da alleato in qualche modo e il re scappa via e guarda un po' lungo la via Tiburtina, varia gli Appennini, una colonna di 40 auto nere proprio in direzione Abruzzo, ed è da lì che parte la storia di Sciaboletta, l'ombra appunto del fascismo, l'ombra di Mussolini, su questa storia, la piccola storia di un piccolo re, di colui che fu in qualche modo, poco poco, preso. Teatro Arco Studio, 13-15 dicembre, quindi di qui a pochi giorni, proprio nel weekend. Invece, da questi giorni ha già debuttato, insomma, rimane in scena allo spazio 18B, Assassini a Casa Cristi, di Jacopo Pezzi, con la regia di Massimo Roberto Beato, fino al 29 dicembre. La regina del giallo, Agatha Christie, che torna per diventare in questo modo protagonista di questo lavoro, appunto un giallo, però tutto contemporaneo, perché si pensa, insomma, se si fosse Agatha Christie ispirato a un personaggio reale per dare vita al suo celebre Hercule Poirot, questo stravagante, arguto investigatore che pare aver dimorato nella casa della scrittrice la sera della vicina di Natale del 1938. Misterioso dritto tutto al femminile fino al 29 dicembre, lo spazio 18B. Andiamo al Quarticciolo, da domani 11 fino al 14 dicembre, al Teatro Quarticciolo va in scena il Teatro delle Ariette, spettacolo con cena, tutto quello che so del grano. Stefano Pasquini è il regista di questo lavoro, che ha proprio a che vedere col grano, con la farina, con quest'idea di cucinare insieme, di raccontare e cucinare, che è poi, diciamo, il tema cardine del teatro di questa compagnia emiliana, Paolo Berselli e Maurizio Ferraresi, insieme a Stefano Pasquini, da tantissimi anni, da 30 anni, va in scena in tutta Italia. Uno spettacolo molto caldo e avvolgente, importante ritornare a questo tipo di rapporto tra attore e spettatore. Quindi assolutamente da non perdere, chiunque voglia appunto riconquistare un po' la dimensione sacrale, ma tutto sommato popolare, del teatro, dall'11 al 14 dicembre, il Teatro delle Ariette a Roma, al Teatro Quarticciolo. Poi ce ne andiamo al Teatro Basilica, che è quello che una volta si chiamava Teatro Studio 1, no, scusami, Sala 1, scusami, confondo, con Studio 1 c'è ancora, Sala 1 a San Giovanni, il Teatro Basilica presenta questo lavoro di Caterina Argenta e Caterina Rossi, con la stessa Argenta, che va in scena per questo Amapola, credo l'accento sia così. Uno spettacolo con un unicum, un'espressione armonica e coinvolgente di musica, danza e immagini, insomma, così ci viene presentato, e tale sembra anche dalla scena che ci sembra di vedere, questa avvolgente, molto delicato passaggio tra una e l'altra, tra le immagini e la musica attraverso la danza. Per questo lavoro bisognerà andare al Teatro Basilica dall'11 al 15 di dicembre. Poi, insomma, andando un po' a saltelli, vi dico che al Teatro Vascello L'Uomo Calamita e Booming 2 e Cirro per la prima volta insieme presentano uno spettacolo di circo contemporaneo, illusionismo, musica e letteratura, e anche un po' di macchine a scosso, credo, alla fine, non lo so, perché fanno un sacco di cose, sembra davvero tantissimo. Dal 12 al 15 dicembre questa prima nazionale per un lavoro, appunto, L'Uomo Calamita, un tendone stracolmo di poesia e fantasia, definito Rolling Stone Magazine, un supereroe assurdo che combatte l'assurdità della guerra tra funambulismo del corpo e della lingua. Uno spettacolo che fonde i gesti di un circense con le frasi di un racconto e le note di uno spartito. Fino al 15 dicembre, da giovedì 12, al Teatro Vascello per questo lavoro molto molto intrido, ma proprio per questo decisamente interessante. Ancora andiamo al teatro Off of Theater, perché Dominique De Bartolo, diretto da Moise Curia, diciamo, abbiamo un po' di nomi particolari, vanno a portare in scena il capolavoro letterario 1994 di Alessandro Baricco, della pièce appunto 900, che 10-12 dicembre se ne starà in scena al Teatro Off of Theater. È la storia appunto di Danny Goodman, di Bill Lemon, 900, il pianista che non scese mai dalla nave e quindi dall'oceano, e questo è quello che andremo a vedere per tre giorni in scena al Teatro Off of Theater. Poi sicuramente una cosa molto interessante avverrà per il volume da presentare di Cavia e Paso, presentato al Teatro Vasto giovedì 12 dicembre alle ore 19, edito di Giuria del Spettacolo l'isola che c'era, grandi maestri del Teatro Ateneo. Il Teatro Ateneo è stato un grandissimo luogo di cultura per la Roma degli anni 80 e 90, dall'80 al 95, e Cadia e Paz, che lo conosce bene, la storia e l'importanza, l'ha raccontato in un libro. Ce lo viene a raccontare giovedì 12 dicembre al Teatro Valle alle ore 19. Andiamo al Teatro Venezia Eliseo, perché torna a Roma da 12 al 22 dicembre l'operazione, lo spettacolo di Rosario Lisma con altri attori che insomma da anni calca le scene e racconta proprio la vicenda di un critico che viene costretto in qualche modo da questa operazione a vedere lo spettacolo di questa compagnia, quindi una sorta di lavoro meta, meta teatrale, anche se forse non lo diremmo così. Comunque il sequestro di questo critico non incline a vedere lo spettacolo sarà in scena il 12 al 22 dicembre al Teatro Eliseo. Sala grande però, perché nell'altra sala ancora va in scena per quest'ultima settimana L'onore perduto di Caterina Blum dal romanzo di Ernst Bull. Ce ne andiamo anche al Teatro Brancaccino, perché dal 12 al 22 dicembre Mirio Galanti e Federico Rosati saranno in scena con il testo di Dennis Kelly, diretto da Marco Simon Puccioni, After the End, che se non sbaglio ho già avuto modo di incrociare da qualche parte, forse fatto da un altro regista, non ricordo benissimo, ma qualcuno secondo me l'aveva già fatto di recente, un'esplosione nucleare, un attacco terroristico forse, chissà, ma anche riuscito a salvare Luisa e l'ha portata nel suo rifugio antiatomico, dove c'è tutto quello di cui Mark pensa di aver bisogno per sopravvivere. Ma chiaramente tra di loro una lotta particolare per l'amore e il potere, in cui vittima e scarmentici si scambiano continuamente i ruoli. Sarà questo il loro tentativo di sopravvivere, e questo ci aspetta per questo spettacolo dal 12 al 22 dicembre al Teatro Brancaccino. Ma andiamo anche al Teatro delle Carrozzerie Notte, perché La Bestia Dentro di Francesco Legneri, più Musica Necessaria, presenta appunto questa presentano questa opera lirica da camera in un atto, il libretto di Martina Diverti, un lavoro molto esigente in qualche modo, insomma, con grande coraggio, presentare un'opera lirica da camera in un atto 12-14 dicembre al Teatro Carrozzerie Notte. Il sole ha smesso di sorgere da tempo, le uniche luci sono quelle artificiali usate dagli abitanti per distinguere il giorno dalla notte, e questa atmosfera, questo clima in cui andremo a vedere quest'opera lirica, Francesco Legneri, ottimo pianista, molto giovane, che ci ricorda quanto appunto si possa di nuovo tornare a parlare di opera lirica. Allora, invece, sabato 14 dicembre, stranamente di sabato, per il nuovo Cinema Palazzo con Sgombro, varietà tragicomico, siamo alla puntata numero 32 a questo punto, se non vado errato, e appunto è la riunione appuntamento imperdibile con tantissimi protagonisti del varietà che da parecchio tempo ormai affolla il palco del Cinema Palazzo. Giovanni Bartolo Bonta, ci sarà Nanno Egidio, Giorgio Salvatore, Giacomo Ciarrapico, Flavio Losato, Eva Sponte, Lucio Villani, presenta Dante Grillo in questa occasione. Insomma, è un gruppo molto molto nutrito, abbiamo visto e parlato varie volte, ma insomma è necessario andare per passare una bella serata allegra come si deve e anche per riflettere. Mentre invece gli stessi giorni, ma 13 e 14 dicembre per due giorni, Code Kirolif allo Spin Time, all'Auditorium di Spin Time, per la stagione spin-off, Special Edition, questa Code Kirolif di Andrea Cosentino, che porta appunto sul palco questo lavoro insieme al clarinettista Marco Colonna, una sorta di jam session tra teatro e musica. Per questo appunto si tratta di una special edition, ed è un lavoro dedicato all'arte, dedicato al rapporto tra realtà e rappresentazione, tra macchina ludica e significato. Questo insomma è quello che c'è dietro, quello di Rorisco, un lavoro straordinario che invito tutti ad andare a vedere. E poi che altro ci possiamo dire? Beh, si Teatro Studio 1 per invece il lavoro di Federica Ponza, Di Madre in Figlia, Di Madre in Figlia, questo lavoro appunto al teatro in quelle di Sorpignattara, con la regia di Andrea Di Palma e Patrizia Ciabatta in scena. Se penso alla mia vigilia di Natale, c'è un solo ed unico suono che sento nitido nelle orecchie. Quale sarà questo suono? Lo andremo a vedere in questo delicato, attraverso il rapporto familiare tra una madre e una figlia, dal 12 al 15 di dicembre, proprio al Teatro Studio 1. Poi, al teatro, e a questo punto non ci resta che sbarcare appunto al Teatro di Roma, perché resta in scena gli spettacoli sia al Teatro India che al Teatro Argentina. L'avviso per Davide Minia, spettacolo da non perdere in assoluto, e Fronte del Porto di Alessandro Gamman fino al 15 di dicembre al Teatro Argentina. E questo, direi, Federico, è proprio tutto. Un abbraccio, Simone. Ciao a tutti. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.